Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Die Krise in Italien hat ein Gesicht, ein junges Gesicht. Die jungen Italiener sind die Verlierer der tiefen Rezession, in der das Land seit Jahren steckt. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. L'Italia non è un paese per giovani, affermava in una corrispondenza estiva da Roma Tilman Kleinjung, giornalista della televisione pubblica tedesca ARD, che avete appena ascoltato. Kleinjung aggiungeva: sempre più giovani lasciano il paese. La frase della settimana che abbiamo scelto per questa puntata è quella di Sergio Bertolucci, direttore della ricerca al CERN. Preservare i cervelli italiani deve essere la priorità del governo. L'esecutivo deve fare la sua parte. Un investimento vero nella formazione e nella ricerca non grava, ma semmai allevia la crisi economica italiana, conclude Bertolucci. L'idea che si possano rimandare gli investimenti in ricerca è pericolosissima. In un mondo globalizzato, se usciamo dal novero dei paesi di eccellenza, non vi rientriamo più. Ma ora passiamo alla storia della settimana. È vero che non ho nascosto nessuna delle caratteristiche del mio percorso, né i figli piccolissimi all'epoca, né il resto, e che il fatto di essere selezionata mostra che ci sono una serie di ostacoli che non sono esistiti in questa selezione. Claudia Ferrazzi, 35 anni, è amministratrice generale aggiunta presso il Louvre a Parigi. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Dati drammatici quelli resi noti dal CNEL nel suo ultimo rapporto sul mercato del lavoro. Dati che fotografano un'Italia che nell'ultimo decennio ha perso una media di 200.000 cittadini all'anno emigrati all'estero. Una stima per difetto, precisano gli autori della ricerca. Siamo un paese dove il sistema delle piccole imprese non riesce a creare sufficiente numero di posti qualificati. Questo fa sì che da un lato ci si trovi a importare manodopera non qualificata e dall'altro si assista da tempo a una fuga dei cervelli causata da un'evidente incompatibilità tra qualifica e lavoro. I laureati under 35 sotto inquadrati sono il 47,4%, quasi la metà. Chiose il rapporto: perdiamo lavoratori qualificati e attraiamo dall'estero lavoratori con qualifiche basse, il contrario di quanto stanno facendo i nostri maggiori concorrenti. E la conferma giunge da uno studio della Georgetown University negli Stati Uniti. È oggi disoccupato il 25% dei giovani americani senza titolo universitario, mentre solo il 7% dei laureati è senza lavoro. E uno studio della Max Planck Institute for Demographic Research di Rostock in Germania conferma: in Italia il fenomeno migratorio è in vertiginoso aumento. Nella ricerca il demografo Emilio Zagheni, assistant professor alla City University di New York, e il suo team hanno analizzato i messaggi di posta elettronica scambiati da 43 milioni di utilizzatori del servizio email Yahoo, risalendo alla loro provenienza geografica. A lasciare l'Italia sono soprattutto le donne, rivela Zagheni. Sentiamo. Osserviamo una crescita della mobilità in Italia tra il 2009 e il 2011 e la crescita è più marcata per le donne che per gli uomini, e pensiamo che ciò possa dipendere dal fatto che le donne hanno livelli di qualifiche più elevate. È un fenomeno europeo oppure notate che in Italia c'è una tendenza maggiore alla mobilità? Il fenomeno tende ad essere europeo, però in paesi nel sud Europa come Spagna ed Italia il fenomeno è più marcato. C'è un'incompletezza nelle stime ufficiali che non riescono a misurare queste nuove ondate migratorie? Le stime ufficiali hanno dei grossi problemi di sottostima. Ciò è dovuto al fatto che parecchie persone, quando si spostano, tendono a non registrarsi attraverso i servizi consolari. Non è l'epopea migratoria dei primi decenni del 1900, ma nel Veneto riparte il fenomeno dell'emigrazione all'estero, nutrita dai cervelli e dai giovani altamente scolarizzati che non vi trovano lavoro. La denuncia durante l'ultimo meeting dei giovani veneti nel mondo. E i dati macro-regionali confermano, secondo l'osservatorio sul Nord-Est, quasi 6 giovani su 10 sono molto o moltissimo d'accordo con l'idea che per fare carriera occorre espatriare, quasi il 20% in più rispetto a 4 anni fa. Il picco di desiderio di espatrio si registra tra le under 25 del Nord-Est, 78%, mentre resta alto tra i 25 e 44 anni al 65%. A sorpresa, la vocazione all'espatrio prevale tra le donne. Ancora più preoccupante il livello di istruzione degli aspiranti emigranti, il desiderio di fuga contagia il 65% di diplomati e laureati. L'allarme fuga dei talenti spinge la regione Piemonte a prendere contromisure. Per aiutare i suoi giovani professionisti a tornare a casa, la regione apre uno sportello virtuale e mette sul tappeto 1 milione di euro. L'idea è aiutare il controesodo di 100-150 giovani all'estero. Il pacchetto si chiama Io lavoro per i talenti e si basa su un sondaggio online. L'assessore regionale al lavoro e alla formazione, Claudia Porchietto. Quello che noi offriamo è in primis un'opportunità di trovare, attraverso un unico interlocutore che è appunto la nostra agenzia Piemonte Lavoro, un servizio in cui loro possono ottenere tutte le informazioni per far sì che la loro esperienza lavorativa fatta all'estero possa essere ben utilizzata nei confini regionali, quindi la disponibilità a metterli in contatto col mondo universitario, con il mondo delle imprese, attraverso chiaramente la valutazione del loro profilo specifico lavorativo che nel frattempo si sono creati, e soprattutto l'aiuto, il supporto per quanto riguarda la forma, diciamo la natura consulenziale, per poter utilizzare gli incentivi fiscali, non soltanto quelli nazionali ma anche quelli regionali, che possono aiutarli per poter ritornare a lavorare all'interno della regione Piemonte. Maggiori informazioni a www.iolavoro.org. Sarà presentata il 4 ottobre la nuova piattaforma di Ministero degli Esteri e Ministero della Ricerca interamente dedicata ai ricercatori italiani all'estero. Si chiamerà innovitalia.net e punta a fare networking su progetti, innovazione e scambi di esperienza. Giovani, startup e innovazione. In programma il 27 settembre a Roma TechCrunch Italy, evento dedicato all'imprenditoria digitale che presenterà le migliori startup italiane del momento. Tra i giovani startup per il 35enne Paolo Privitera, già protagonista del nostro programma nel gennaio 2011. Paolo ha raccolto $1 milione da investitori privati con la sua azienda PicOne, che svolge ricerche di mercato sul web e sui social media. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta a Parigi, la Ville Lumière e il suggestivo Louvre, a fare da sfondo alla prossima mezz'ora insieme. Nome: Claudia. Cognome: Ferrazzi. Età: 35 anni. Città di origine: Bergamo. Studi: laurea italiano e poi un percorso all'École Nationale d'Administration. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2000. Per andare dove? A Bruxelles. Perché? Per completare studi e formazione. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono vice amministratore generale del Museo del Louvre. Dove? A Parigi. Tornerai? Tornerò. In Italia potrebbe sembrare strano che qualcuno come me, i cui ultimi studi di storia dell'arte risalgono al liceo, possa assumere una posizione di responsabilità nel Museo dei Musei, scrivi Claudia a giovanitalenti@radio24.it. Non pensi che in Italia siamo rimasti ancorati a rigidità mentali del passato, inscatolati dentro schemi conservatori dove se nasci ragioniere muori ragioniere, senza riuscire a liberare la mente e aprirsi alle contaminazioni? Quanto tutto ciò frena giovani e innovazione? Io direi che sia in Francia che in Italia ci sono delle professioni che, se fatte a un alto livello, chiedono degli studi approfonditi e soprattutto un'esperienza molto ricca, quindi bisogna dosare le esperienze generaliste e le esperienze più specializzate. Questo si fa oggi più in Francia perché ci si muove di più professionalmente. Importante, la mobilità, questo è un fattore molto importante. Per cominciare, i tuoi studi, relazioni pubbliche allo IUM a Milano, perché questa scelta dopo gli studi classici? Volevo lavorare nella comunicazione pubblica e nelle relazioni internazionali. E poco più che ventenne ti laurei, quale giudizio dai a posteriori dell'università italiana? Serve per poter aspirare a un buon lavoro? È necessaria ma non sufficiente. Ed è vero che hai pensato di intraprendere la carriera diplomatica iscrivendoti alla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione. Cosa ti ha scoraggiato? È vero, non mi sono iscritta alla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione perché è una scuola che non permetteva all'epoca l'accesso dopo la laurea, e quindi la carriera diplomatica ho pensato di intraprenderla passando il concorso al Ministero degli Affari Esteri e poi aspettando la data del concorso è arrivata l'opportunità delle NAE, quindi ho cambiato programma. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. A quel punto parti, lasci l'Italia per un master in politica europea a Bruxelles. Quanto ha inciso in questa scelta la prospettiva di una carriera più rapida e soddisfacente all'estero, e quell'esperienza ti ha aperto gli orizzonti? Io credo che il passaggio da Bruxelles, che mi ha aperto molto gli orizzonti, nel senso che è una città particolarmente cosmopolita e appassionante per un giovane ventenne europeo, e tra l'altro non solo europeo. Ho poi capito che con una laurea e un master non avrei potuto fare ciò che volevo, esercitare responsabilità di management pubblico a un certo livello, scrivi a giovanitalenti@radio24.it. Qui entra in gioco la Francia. Approdi infatti alla prestigiosissima ENA, l'École Nationale d'Administration. Prima domanda: come ci si entra da stranieri? Qual è il percorso selettivo? È un concorso fondato su una prova scritta di cultura generale amministrativa francese, seguito da una selezione di ammissione e poi una prova orale che si svolge in ciascuno dei paesi della nazionalità dei pretendenti, quindi all'ambasciata francese di ciascuno dei paesi. E la formazione e gli studi svolgono un ruolo ruolo di ascensore sociale in Francia attraverso una selezione meritocratica? Io penso di sì, tutto questo è relativo, in Francia si lavora molto su questa domanda perché si dice che la formazione e gli studi francesi sono ancora troppo elitisti. Io trovo che così rispetto ai paesi, agli altri paesi che conosco, sia già abbastanza avanzato come ruolo di ascensore sociale. La Francia poi ti conquista al punto che abbandoni l'idea di tornare in Italia, almeno per il momento, anche a causa delle incertezze sui tempi dei nostri concorsi. Un intoppo di nazionalità e di legge ti impedisce di entrare subito nell'amministrazione pubblica transalpina e così passi al management di impresa. 3 anni in una società di consulenza anglosassone, qual è il maggiore insegnamento che hai tratto da quell'esperienza? Il maggiore insegnamento è che bisogna molto ascoltare tutte le persone, che sono troppo rare in una vita professionale in cui qualcuno ti dice in che cosa ti puoi migliorare e quali sono le tue forze. E questa è una cosa che è molto molto rara, diciamo, nei paesi latini. È interessante notare come alla fine la contaminazione, se vogliamo, di ambiti di lavoro e il merito accompagnano la tua carriera, perché poi tu torni all'interno dello Stato francese, Ministero delle Finanze, come? Ma è il direttore della riforma del bilancio che mi ha un po' internalizzato, era un mio cliente, ha deciso di propormi di raggiungere la squadra permanente, quindi è così che sono rientrata nell'amministrazione. A un certo punto arriva l'occasione della vita, la selezione per un posto da vice amministratore generale del Louvre. Cosa ti ha spinto a provarci? Il Louvre è forse il museo più universale che io possa conoscere, quindi la prima cosa è volevo ritrovare questo ambiente estremamente internazionale, aperto, universale, rivolto al mondo intero, in cui tutte le nazionalità si sentano un po' a casa. Il Louvre è anche una struttura unica perché ha 50% delle sue risorse esattamente che vengono da una sovvenzione pubblica, che ci permettono di realizzare certe cose che un privato non finanzierebbe, e 50% che vengono da altre risorse commerciali, biglietteria, altre iniziative che facciamo e che ci spingono a essere concorrenziali. Tu partecipi e ovviamente vinci, donna, straniera, giovane e anche madre all'epoca, vinci questo posto al Louvre. Quanto è ferrea, quanto è meritocratica la selezione che hai superato? È vero che non ho nascosto nessuna delle caratteristiche del mio percorso, né i figli piccolissimi all'epoca, né il resto, e che il fatto di essere selezionata mostra che ci sono una serie di ostacoli che non sono esistiti in questa selezione. È questa la cosa assolutamente positiva. Attualmente di cosa ti occupi? Ricordiamo che sei a soli 35 anni la numero 3 del Louvre. Io sono amministratore generale adjoint, quindi vice amministratore aggiunto, mi occupo dell'amministrazione del museo, cioè assicurare al museo i mezzi della sua sopravvivenza, stimolare i progetti per proiettare un po' il museo nel futuro e poi fare incontrare le collezioni del museo del Louvre con il loro pubblico. E parlando di Louvre, non possiamo dimenticare che proprio questa settimana, martedì, avete inaugurato un importante nuovo dipartimento. Raccontaci. Abbiamo inaugurato martedì 3.200 nuovi metri quadri interamente dedicati alle arti islamiche, una collezione molto importante, penso la più importante al mondo, fatta di 15.000 oggetti del museo del Louvre, completati da più di 3.000 del Museo degli Arts Décoratifs, che fanno una collezione unica, molto varia, che mostra la diversità della civiltà islamica dal VII-VIII secolo al XIX e dalla Spagna andalusa fino all'India. E ovviamente un progetto di cui siamo molto fieri, perché è prima di tutto un progetto culturale ma anche un po' politico, per mostrare un viso luminoso dell'Islam che magari è meno conosciuto e meno frequente in Europa oggi. Domanda di rito, Claudia: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Difficile rispondere a questa domanda. Io so che quello che ci riesce molto bene come italiani all'estero è lavorare e far lavorare l'Italia con altri paesi, ed è nei matrimoni misti europei che si raggiunge spesso il successo. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Claudia Ferrazzi, 35enne amministratrice generale aggiunta presso il Louvre a Parigi. Claudia vi ha approdata dopo una laurea in relazioni pubbliche seguita da un master in politica europea a Bruxelles e un percorso alla prestigiosa ENA di Parigi. Da lì l'approdo nella consulenza internazionale, prima di essere chiamata al Ministero delle Finanze transalpino fino al Louvre per una carica assolutamente prestigiosa vinta per concorso. Trentenne, straniera, italiana, italiana, madre di due bambini. Miracolo o normalità all'estero? Ci raggiunge ora in linea Salvatore Settis, archeologo e storico dell'arte, attualmente presidente del Consiglio Scientifico del Louvre. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Professore, subito una domanda a bruciapelo per iniziare. Una carriera così rapida e di successo sarebbe stata possibile per Claudia in Italia o sarebbe stata inevitabilmente più lenta, se non addirittura ostacolata? È impensabile, purtroppo, che una persona brillante come Claudia Ferrazzi faccia una carriera analoga a quella che ha fatto in Francia nel nostro paese. Purtroppo i lacci, i lacciuoli, gli ostacoli, le difficoltà burocratiche sono enormi e scoraggiano la carriera brillante dei giovani. Parliamo moltissimo di merito, ma è tutta una grande retorica del merito. In realtà, con pochissime eccezioni, non riusciamo di fatto. Io sono completamente d'accordo con lei, purtroppo. In un articolo su Corriere della Sera, Gian Antonio Stella ha contato almeno 5 italiani, compresa Claudia, che ricoprono posizioni apicali al Louvre. Non è paradossale avere tanto capitale umano specializzato in gestione museale fuori dai nostri confini e un paese in evidente difficoltà nel valorizzare l'immenso patrimonio culturale al di qua delle Alpi? Potrebbero questi giovani fare la differenza se tornassero? Io credo che potrebbero fare la differenza loro, potrebbero fare la differenza anche altri italiani che sono disoccupati in Italia, oppure degli stranieri che fossero attratti a lavorare in Italia. Purtroppo in Italia negli ultimi anni è prevalsa sempre di più l'idea che spendere in cultura sia uno spreco, sia un lusso e non un investimento. Questo è un gravissimo errore che non dipende affatto dal segno politico di centrodestra in cui l'Italia è stata governata negli ultimi anni, perché anche nella Francia di Sarkozy hanno evidentemente fatto tutt'altro e non hanno affatto ridotto i finanziamenti in cultura. L'Italia, dei grandi paesi europei, è l'unico che quando ci sono dei tagli, quando c'è una crisi, comincia a coltagliare con la cultura, la scuola, l'università, la ricerca e così via. E questo è veramente un errore culturale e politico gigantesco che purtroppo avrà ripercussioni sulla vita anche economica del paese per decenni. Speriamo che qualcuno prima o poi se ne accorga. Questo governo tecnico fino al momento non mostra di essersene accorto. Sì, pare insomma che ci voglia un po' di tempo a rendersi conto dell'importanza della cultura. Cultura genera anche business, come il Louvre mostra. Claudia, hai mai pensato di tornare in Italia? Con quali obiettivi e a quali condizioni torneresti? Io ovviamente ho in progetto di tornare in Italia anche solo per delle questioni personali. La mia famiglia è franco-italiana e con quali obiettivi oggi non lo so dire, a quali condizioni. Io penso che il progetto che deve essere proposto dei giovani perché sia attrattivo è un progetto che deve essere dinamico, fondarsi su degli elementi realistici e poi ovviamente ci sono, è la scelta del capo. Io da sempre penso che un lavoro si sceglie scegliendo il proprio capo, qualcuno che ti incoraggi, ti insegna, ti faccia migliorare. Un paese che esilia i giovani talenti distrugge il suo futuro, scriveva professor Settis in un articolo sul Sole 24 Ore nell'ottobre 2008. Da quanto questo esilio prosegue è a tutt'oggi un'emergenza, ma soprattutto, secondo lei, a 4 anni di distanza, qualcuno ha risposto alla domanda che lei pose allora? E la domanda era: c'è un'idea dell'Italia, del suo futuro? A me non sembra che questa idea ci sia ancora, almeno non c'è quella che piacerebbe a me. A me sembra che, presi proprio con l'acqua alla gola dalla crisi economica generale, in Italia stia dominando, soprattutto in questa fase storica, un'idea secondo cui l'economia, i mercati sono quelli che comandano, che hanno la bacchetta del direttore d'orchestra, tutto il resto non conta nulla. Ora, nella storia umana non è mai stato così. Le idee sono sempre quelle che hanno generato il mondo, che hanno generato anche le innovazioni economiche, che hanno generato una società diversa e migliore. In questo momento questa idea dell'Italia del suo futuro non c'è. Le vittime sono sotto i nostri occhi, sono i giovani. C'è una, forse due generazioni perdute dove la disoccupazione sta crescendo. Se facciamo così, se continuiamo a fare così, una vera idea dell'Italia e del suo futuro non ci sarà, perché il futuro dell'Italia sono i giovani. Per chiudere in modo propositivo, professore, secondo lei anche in Italia potremmo rendere la cultura, come dire, un'industria, come insegna un po' anche il modello Louvre? Ma la cultura non è mai un'industria, ma la cultura può essere qualcosa che produce. Sono sì, due, esatto, due in mondi, questo senso. Sono due mondi diversi. La cultura produce, deve produrre. Per fare ciò bisognerebbe che intanto si puntasse di più veramente sull'idea che investire in cultura è un investimento, non uno spreco, e bisognerebbe fare anche delle riforme strutturali importanti. Dobbiamo ricordarci che anziché una palla al piede, il nostro patrimonio è una leva per lo sviluppo. sviluppo. Grazie al professor Salvatore Settis. E per Claudia Ferrazzi, in una recente intervista all'Eco di Bergamo hai dato un consiglio importante ai giovani. La premessa è illuminante: penso che l'attuale classe dirigente italiana dovrebbe rendersi conto che la mia generazione e quella successiva alla mia si trova a dover fare i conti con un mondo dove i ruoli apicali sono coperti da anziani, dove le famiglie di origine sono in crisi di valori, dove la burocrazia frena le aspirazioni. Fatta questa premessa, qual è il tuo personale consiglio ai giovani in ascolto? Non pensare al passato e alle cose che esistono, ma di sognare un pochino e farsi portare dai sogni. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: una communication officer per l'ONG IDEA a Bruxelles, scadenza per i CV 26 settembre, info a recruitment@idbet.be. Una vice direttore al centro di ricerca della Deutsche Bundesbank, sede di Francoforte, Germania, scadenza per i CV 15 ottobre, info a bundesbank.de. E infine uno scientific software engineer per il consorzio europeo Verce, sede di Parigi, scadenza per i CV 30 settembre, info a pmo@verce.eu. E siamo giunti ad Expats, il nuovo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi vi parliamo di come la nostra nuova immigrazione possa farsi poesia attraverso un concetto innovativo, quello del dispatrio. Ce ne parla Alessandro Mistrorigo, co-ideatore del progetto Dopotutto. Quando nasce l'idea? Nasce nel novembre-dicembre 2010. Abbiamo cominciato a pensare al fatto che forse c'erano anche altri poeti, altra gente che scriveva da questo punto di vista, cioè dal punto di vista proprio del dispatrio, e anche con questo tipo di linguaggio che insomma ci interessa molto, che è un linguaggio abbastanza concreto, preciso. È un gruppo di poeti innanzitutto? Sì, diciamo, non è ancora un gruppo, comunque non so se lo diventerà, ma la volontà è quella di promuovere insomma in qualche modo il linguaggio della poesia, quindi insomma la poesia però scritta a partire da questo punto di vista, dal punto di vista appunto del dispatrio, di ecco, fuori. Concetto di dispatrio importante, se brevemente ci puoi spiegare cos'è il dispatrio. Guarda, è un concetto che è in definizione ed è una cosa diversa dall'esilio. Il dispatrio c'è una citazione che a me piace molto ripetere, si dice: mi accorgo che il punto di vista continua ad oscillare. E questa citazione per noi è un po' il punto di vista, cioè il fatto che noi siamo qui, ma siamo anche in Italia, non possiamo slegarci dall'Italia, però viviamo la realtà quotidiana dell'Inghilterra, perché siamo in Inghilterra, ma la stessa cosa vale per gli italiani che stanno, non so, a Berlino, piuttosto che in Spagna, eccetera, eccetera. Quindi è un continuo cambiare il punto di vista. E credo anche che molte persone si sentano dispatriate, questo ho avuto modo di comprovarlo anche insomma con amici, eccetera, anche dentro il paese. Quindi è una condizione un po' appunto da definire ancora. I giovani talenti italiani all'estero, tra cui ci sei tu, sono dei dispatriati? Io credo di sì, credo che debbano riconoscersi insomma in questa parola, o comunque modificarla, o comunque definirla. Per maggiori informazioni potete cliccare su dopotuttonet.wordpress.com. Un motivo per restare o tornare. È prevista per dopodomani la pubblicazione di un bando di concorso, il primo dalla 99, per titoli ed esami su base regionale, finalizzato alla copertura di 11.892 cattedre nelle scuole statali di ogni ordine e grado. La procedura concorsuale avverrà secondo modalità innovative per favorire l'ingresso nella scuola di insegnanti giovani, capaci e meritevoli, sottolinea il Ministero dell'Istruzione. Occorre sostenere questa generazione e pensare a quelle che verranno. Dobbiamo lavorare per ridare forza a breve termine con le assunzioni, ma anche a lungo termine, e lo faremo con la cultura del merito, così il ministro Francesco Profumo. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti, o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava. Ritorna pure lo spazio Interactive, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di settembre è: creare canali privilegiati di rientro tra aziende italiane e giovani talenti all'estero può costituire un primo passo per rendere il nostro paese attrattivo e modernizzarlo in una win-win situation? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.